Alors, installez-vous. Je fais une petite présentation en français et puis ensuite, on verra. Magari capiscono tutti l'italiano. Vedremo. Alors, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cet après-midi. Deuxième partie qui est consacrée à la pratique scénique. Et à l'adaptation des textes de Dario Fo et Franca Rame. La discussion sera animée par Laetitia Dumont-Lévy, qui est co-organisatrice, comme vous le savez, de cette journée, mais qui est aussi enseignante à Paris-Ouest Nanterre, ou en études théâtrales, où elle prépare une thèse sur Dario Fo. Elle a différentes casquettes et c'est pour ça que le débat animé par elle sera sans doute très intéressant puisqu'elle est co-directrice artistique de la compagnie de théâtre musical Midiez, Miraisin, et elle est aussi comédienne au sein de la compagnie de l'École de la Nuit. Voilà. Donc, très rapidement, je présente aussi Marina De Iuli, qui va se présenter elle-même, mais je suis obligée de la présenter en quelques mots. Voilà, Marina De Iuli est une ancienne élève, puis collaboratrice, toujours actuellement, de Dario Fo et Franca Rame. Elle vous racontera elle-même son expérience auprès de ces deux grandes personnalités. Et elle a longtemps joué, adapté des textes de Fo et de Rame. Mais elle est aussi dramaturge puisque depuis quelques années, elle écrit ses propres textes, dont en l'occurrence un récit qui s'intitule « Allegra signora fame » qui a été édité et qu'elle a monté, et puis aussi des textes pour les enfants qu'elle joue. Elle est à la tête d'une association, l'association culturelle Verba Manent de Varese, dans laquelle elle propose différents spectacles. Je vais vous faire passer la brochure, comme ça vous verrez la diversité aussi de sa personnalité d'actrice. Elle chante, elle danse, enfin elle est vraiment polyvalente. Et j'espère que vous aurez l'occasion de l'apprécier, pas seulement cet après-midi, mais aussi grâce aux deux spectacles qu'elle est venue nous offrir, et nous sommes très honorés, nous la remercions, à Malesherbes, donc au sein de notre UFR. Deux spectacles, l'un, je rappelle, vous le savez peut-être tous, mais je le rappelle quand même, c'est bien, l'un demain soir, le premier demain soir, qui est Johanna Padana, La Descoverta delle Americhe, une adaptation au féminin du texte de Dario Fo, Joan Padan, La Descoverta delle Americhe, donc, dont une grande partie est une création de Marina De Iuli. Et ce spectacle sera présenté par elle en dialecte, dans ce dialecte voilà, franc, franc, de cette zone franche dialectale, on va dire, et surtitré pour ceux qui ne comprendraient pas ni le dialecte ni l'italien. Donc vous pouvez venir accompagné de Français qui n'ont aucun contact avec la culture italienne, ils ne seront pas déçus et ils pourront suivre. L'autre spectacle, donc demain c'est à 17h dans le Grand Amphi de l'espace Malraux. L'autre spectacle a lieu vendredi soir à 18h, donc j'espère que tous les étudiants ne seront pas partis en week-end et ne se seront pas envolés, qu'on les aura encore sous la main. Parce que là, c'est une expérience, je trouve, encore plus intéressante, parce que Marina De Iuli va monter tout à casa l'ette chiesa de Franca Rame et Dario Fo, mais directement en langue française. Oh là là. Directement en langue... C'était une entrée tonitruante et très théâtrale de Jean-Claude. Donc voilà, le spectacle de vendredi soir en langue française, qui sera sa langue. Donc elle a travaillé son français, ça n'est pas sa langue naturelle. Elle l'a étudié autrefois, m'a-t-elle dit, au collège, mais depuis plus grand-chose. Et je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire aussi avec son adaptation en français de ce spectacle. Voilà, donc je vous fais passer la petite brochure et puis je la laisse se présenter elle-même. Comprendete l'italiano o bisogna parlare in francese? Chi ne comprend pas l'italien dans la salle? Ah, non! Non è vero, non è vero. Allora posso parlare italiano? Sì, capite tutto. Allora, beh, io Diciamo che vengo da una preparazione io classica, ho fatto diciamo l'attrice, il percorso d'attrice naturale, quello di fare una scuola di 3 anni e poi ritrovarmi in compagnie che mettono in scena spettacoli classici come Goldoni, Pirandello. Nel 91, un po' casualmente, sono entrata nella compagnia di Dario Fo. Io in realtà, la mia storia nasce in un paese piccolissimo, vicino alla Svizzera. E devo dire che tutto avrei pensato di fare tranne che l'attrice nella mia vita, anche perché insomma, sono una persona abbastanza timida, abbastanza introversa, e lo ero ancora di più quando ero una ragazza della vostra età. E in più mia madre mi ha sempre fatto notare come chi nasce e cresce in un paese piccolo così, se non ha dei soldi, insomma non deve avere neanche speranze, perché tanto i suoi sogni non si realizzeranno mai. E io, insomma, avendo questo background di positività nella mia vita, ho cercato di dimostrare un po' a me stessa che si poteva fare lo stesso. Allora ho studiato, ho lavorato, diciamo, ho fatto un lavoro assolutamente normale, nel senso ero un'impiegata. Poi a 22 anni mi sono chiesta perché, insomma, non si potesse cercare di realizzare il proprio sogno. E dato che il mio sogno era quello di fare teatro, sono andata a Milano, ho fatto un provino, un classico provino italiano, ma penso che sia anche francese, dove ci sono 2000 persone, ne prendono 2. Io ho fatto questo provino, insomma ce l'ho messa tutta, ma non mi hanno presa. Ed ero disperata, mi volevo suicidare. E infatti mi volevo suicidare, sono entrata in una panetteria e mi volevo suicidare con una teglia intera di focaccia alle cipolle. E in questa panetteria invece ho incontrato una signora che non stava tanto bene neanche lei quel giorno, a dir la verità, ma mi ha chiesto un po' come mai fossi così disperata, e io le ho raccontato la mia storia e lei mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, io ho 2 bambini piccoli, proprio mi sono appena separata e insegno in una scuola di recitazione, e se vuoi puoi venire a casa mia, mi potrai aiutare con i bambini e se ne avrai le capacità potrai studiare nella mia scuola gratuitamente. Ma che culo, veramente. Io ho detto va bene. Infatti il giorno dopo ero con 2 grandi valigie pronta alla nuova vita, con mia madre che mi gridava: figlia mia, non fare la puttana, perché mi incoraggiava verso questa strada. E sono stati 3 anni in questa scuola, dove è stata la mia formazione, e poi ho cominciato a lavorare in piccole compagnie, e 2 anni più tardi, nel 91, ho fatto un provino per la compagnia di Dario Fo e di Franca Rame, e niente, è partita questa avventura. È un'avventura perché in realtà con loro io sì, mi sono diciamo fatto l'attrice, però in realtà, dato che è stata una collaborazione che è durata più di 10 anni, è stata una collaborazione intensiva dove non soltanto io ho lavorato con loro, ma ho vissuto con loro. Io non avevo più un appoggio su Milano, come non avevo una casa su Milano, e praticamente vivevo nella loro casa. Quando d'estate era il momento in cui bisognava preparare i testi teatrali, loro si spostavano in una casa vicino a Cesenatico, sul mare Adriatico, e io andavo a vivere con loro, e quindi era praticamente un lavoro che coinvolgeva tutto l'anno e passava da quando io facevo il mio lavoro, insomma, che avevo scelto, cioè l'attrice, a quando si preparavano i testi, quindi si scrivevano, Dario li scriveva, Franca li scriveva, poi insieme venivano corretti, venivano scritti, si facevano le osservazioni, poi Dario preparava i bozzetti delle scenografie, allora bisognava occuparsi di andare a controllare le scenografie, poi c'erano i costumi, bisognava occuparsi dei costumi, insomma è stata quello che si chiama una gavetta, in italiano, una preparazione al mondo teatrale, che era il mondo del teatro sul palco e dietro alle quinte. Io per tantissimo tempo, quando non c'era la mia parte, non recitavo sul palco, io stavo dietro le quinte, prendevo nota di tutto ciò che avveniva sul palco, perché questi sono due mostri, due mostri sacri, nel senso che sul palco inventano costantemente, il testo si trasforma, ogni attimo è utilizzato per migliorare lo spettacolo. Lo spettacolo, da quando nasce con il suo testo a quando finisce la tournée, si è completamente trasformato, perché loro ogni sera registravano perlomeno, perché adesso ultimamente fanno molto meno spettacoli, fanno qualche spettacolo, registravano lo spettacolo, lo sentivano, allora c'erano le cassette audio, prima ancora delle videocassette, utilizzavano di più le audiocassette, si registrava e ogni volta che lì non veniva una risata bisognava porsi il problema del perché non è più venuta quella risata, perché ho fatto questo movimento, perché ho aggiunto questa pausa, perché... E quindi in pratica il testo a livello tecnico si evolveva, e non solo, diventava un'altra cosa anche per tutto ciò che capitava. Naturalmente, se era un testo politico, come spesso lo era, per quello che capitava giornalmente, perché cioè, non so, anche per dire, uno dei testi che ho vissuto è stato quello del settimo Ruba un po' meno numero 2, che è stato lo spettacolo durante la Tangentopoli italiana, e quindi ogni giorno c'erano nuovi arrestati, ogni giorno praticamente in scena si arrivava con il foglietto e spesso si doveva leggere quello che era capitato, e così come più o meno tutti i testi, diciamo, di carattere politico. Ecco, questo è stato un po' il mio impatto con il loro mondo. Allora, Lucy ti ha presentata come allieva di Dario Fo Francarame. E collaboratrice. Sì, ma anche allieva, cioè sei entrata nella compagnia per fare l'attrice e poi comunque dicevi che prendevi appunti, eccetera. È stata anche per te una scuola, e ci puoi dire qual è la differenza fra quella scuola, la scuola di Dario Fo Francarame, e quello che hai chiamato preparazione classica della tua scuola di film? Sì, allora, prima di tutto, appena io ho lavorato con Dario e Franca, diciamo specialmente con Franca, perché il mio primo incontro è stato con il testo Parliamo di donne, l'eroina e la donna grassa, che è un testo al femminile, diciamo un testo, sì, insomma, forse non uno di quelli più famosi o più riusciti, però sicuramente un testo dove il discorso femminile e femminista viene alla luce. E io mi ricordo che eravamo praticamente, a parte Franca, gli altri erano tutti dei giovani attori, spesso la maggioranza di noi eravamo alle prime esperienze in una grande compagnia primaria. E l'impatto è stato: va bene, hai imparato a recitare, adesso devi imparare a parlare sul palcoscenico, che è stata la cosa per tutti più difficile, perché è chiaro che un attore impara una tecnica, impara come usare la voce, come usare il corpo, però poi il passaggio dall'essere attore ad essere reale, ma così reale da essere attraverso tutte le tecniche che hai imparato, convincente e credibile, che io credo al tuo pensiero, credo che tu quello che stai dicendo sul palcoscenico è esattamente ciò che tu stai pensando, ed è quello che Dario e Franca esigono nei loro spettacoli, perché magari tu non lo pensi realmente, però il pubblico lo deve pensare, perché dato che i discorsi sono talmente sociopolitici, così forti, che non deve neanche esserci il dubbio che tu stia recitando in quel momento, tu sei quello. Per cui il primo impatto è stato non fare l'attore, fai quello che viene a portarmi un messaggio, che mi comunica il pensiero dell'autore attraverso se stesso. E questo è stato per me abbastanza all'inizio un po' difficile, perché comunque io ero abituata ad affrontare un testo partendo da un personaggio, studiare il personaggio, capire, entrare un po' da Stanislavski, insomma cercare di no, trovare la psicologia eccetera. Invece quello, l'impatto è stato no, psicologia togliela, dopo casomai, dopo, prima di tutto tu devi capire il testo, cosa volevo dire io, sì. Subito, no? E allora, insomma, questa cosa... E poi c'è stato l'impatto con quello che è il testo, il teatro comico, teatro di ritmi e il teatro di situazione, dove la situazione è la cosa fondamentale. Cioè, non è fondamentale tu, attore, che mi stai interpretando quel personaggio così tanto bene, ma è la situazione che... prevale su tutto. Tu potresti anche raccontare dei numeri in quel momento, ma se la situazione è ben chiara al pubblico, il messaggio politico arriva diretto al pubblico. E il ritmo, io mi ricordo Franca, che è anche insomma una veramente tecnicamente molto molto preparata, perché è un'attrice che mentre recita contemporaneamente guarda il faro che si è spento, fa così sul suo microfono per attirare l'attenzione del tecnico luci, per segnalargli che là c'è una lampadina rotta, non ti sei accorto, no? Durante un applauso commenta sopra il microfono per conversare con noi o con i tecnici. Se ti stai dilatando nei ritmi, comincia a fare dei segnacci tipo vigile urbano. Che... insomma, questo impatto, anche se a volte è risultato, specialmente all'inizio, magari un po' sconvolgente, mi ha insegnato tanto. Mi ha fatto entrare improvvisamente in un modo di fare teatro che poi ho voluto mantenere anche nei testi successivi, quando non mi sono più trovata a rappresentare spettacoli di Dario o di Franca. E anzi, è stata una tragedia umana, perché non riuscivo più a trovare, specialmente io faccio soprattutto monologhi, testi che avessero una tecnica, una macchina teatrale talmente precisa come quelli che mi ero già trovata a recitare attraverso i loro testi, per cui sono arrivata poi alla scrittura per questo. Quindi è stata una scuola come attrice, ma anche una scuola come autrice, perché alla fine sei diventata anche tu. Cioè, uno passa attraverso la scuola Dario Fo, diventa attore, autore anche lui. E invece, tu stavi parlando delle indicazioni di Franca Rame, che ti dava, eccetera. C'è una differenza nella direzione d'attore fra Franca Rame e Dario Fo? C'è una differenza sicuramente come attori, nel senso che Franca è un'attrice essenziale, lo è sempre stata, è un'attrice che è quella che con pochissimo, cioè ha un grande senso della misura, per cui con pochissimo ti fa arrivare i messaggi che ci sono nel testo. Non è un'attrice che... utilizza in modo esagerato il suo corpo, è un'attrice che è parsimoniosa in questo, ma è proprio una chiara sua volontà, perché l'essenzialità è per lei fondamentale, come è fondamentale l'essere epico, no? È una delle attrici che potrebbe essere un'attrice brechtiana, lei narra le storie, le riporta sempre attraverso se stessa. Non ha bisogno di calarsi ogni volta in un personaggio ben diverso uno dall'altro, ma è sempre un modo per passare il testo, ma attraverso la narrazione. Dario sicuramente è un attore nel quale l'uso del corpo, l'uso della mimica, eccetera, è prevalente. Questo naturalmente soprattutto nei monologhi, si vede questa differenza anche nelle commedie, ma nei monologhi è essenziale. Infatti, Franca, vi parlo di quelle, diciamo, che dei testi che io ho potuto vedere direttamente, come sono nati, come sono cresciuti. Però se voi confrontate un Joan Padan con un Sesso grazie tanto per gradire, è proprio la cosa palese. Franca è arrivata, diciamo, al culmine della sua carriera con un testo esilarante, che se domani ci siete ve ne faccio un pezzetto, venerdì anzi, bisogna perché è la fine dello spettacolo, però fa morire, in cui cosa fa? Lei chiacchiera praticamente per 2 ore con il pubblico, chiacchiera, ha una conversazione come potrei averla io in questo momento. Dario, nel Joan Padana, diciamo che è stato il suo testo clou, di quelli che io ho potuto vederne nascere e crescere, è l'essenzialità dell'attore. L'attore che con il suo corpo, la sua voce, la sua mimica, ti crea una scenografia, ti crea 2000 personaggi. Due tecniche diverse, due modi di fare teatro diversi, che sono però nello stesso momento anche insieme, nel senso che sono due modi che vanno a passeggio insieme. E Marina De Iuli? La recitazione di Marina De Iuli? E la recitazione di Marina De Iuli, allora, diciamo che all'inizio è nata, diciamo, un po' vicino a quello che era la Franca Rame della situazione, prima di tutto perché è il primo testo che io ho rappresentato come monologo è Tutta casa, letto e chiesa, parecchi anni fa, e quindi Franca mi ha fatto la regia e di conseguenza ha in qualche modo dato il suo imprinting, no? Poi in realtà io mi sono resa conto, con l'andare del tempo, che il teatro di Dario Fo, cioè il teatro della Giulia Rata, era quello che io sentivo più vicino a tutti, di tutti. E infatti, a mano che sono andata avanti, nello stesso Tutta casa, ho inserito qualcosa che di Tutta casa non faceva parte. Cioè ho mantenuto, diciamo, 2 monologhi di Tutta casa, per poi deviare, seguendo lo stesso discorso, il discorso è quello della donna, è quello della coppia, del rapporto sessuale, eccetera, verso un mondo teatrale che fosse anche il mondo di Dario Fo. Infatti io ho rappresentato all'interno di questo spettacolo La Parpaia Topola, che è una giullarata dove il protagonista è il sesso femminile, che non era mai stato rappresentato in Italia, ma penso forse neanche all'estero, da una donna, perché era nato come un fablieu francese, proprio alle sue origini, come un testo femminile, rappresentato da donne. Però poi, dal momento in cui Dario Fo lo ha ripreso in mano, lo ha reinventato, diciamo, al maschile, ma è relativo al maschile, perché si parla di una giullarata dove i personaggi sono tantissimi, per cui diciamo che c'è la possibilità di essere maschio o femmina, però una donna non l'aveva mai rappresentato. Perché? Perché in qualche modo anche da parte di Franca c'era il timore di rappresentare il sesso femminile, cioè tu il protagonista che andavi a rappresentare era il sesso femminile. Invece funziona benissimo con una donna. Ma anche perché proprio di volgarità non ce n'è assolutamente in questo testo, e io mi sono ritrovata ad essere quasi quasi più vicina al teatro Fo che al teatro di Franca Rame, e ho fatto un miscuglio di ciò che mi piaceva dell'uno e di ciò che mi piaceva dell'altro. E poi a mano anche nei miei stessi testi, no? Tutta casa, letto e chiesa, poi io ho preso in esame Mistero Buffo, che poi ho messo un altro titolo perché si titola Ho visto un re, perché non è solo Mistero Buffo, è Mistero Buffo delle musiche popolari, eccetera. E all'interno di questo ho cominciato a scrivere un mio primo testo che si intitola Il buffone buono a niente, che è proprio una giullarata, e quindi sono stata all'interno della giullarata. Ioanna Padana, che è stato ancora un salto di qualità quando Dario mi ha proposto di reinventare al femminile il testo di Joan Padan, perché lui credeva e aveva ragione, che potesse funzionare al femminile, riscrivendolo chiaramente, era una giullarata. E quando mi sono trovata a fare il mio primo testo da sola, ho scelto una giullarata, ho scelto di raccontare la storia di Marco Polo attraverso una scrittura che si avvicina alla giullarata. Poi da lì ho anche deviato, però ho dovuto concludere un percorso dove la giullarata, e quindi questo uso dell'essere attore a tutto piede, tutto tondo, dove tu sei attore col corpo, con la voce, dove tu ritorni alla tua infanzia, dove ti togli tutte le cose superflue e ritorni ad essere un bimbo che ha voglia di giocare e si trasforma e fa vedere al pubblico tutto ciò che hai intorno. Io mi ricordo una cosa che mi ha fatto proprio ridere, quando lavoravo con loro e stavo anche nell'ufficio quando ci si occupava di cose pratiche, insomma. Una volta un signore mi ha telefonato e mi ha detto che voleva una videocassetta dove Dario Fo indossava un mantello e un sacco di anelli. Io non mi ricordavo questa cosa qui, però. E mi faccio, ma senta, ma sì, faceva un papa. E gli ho detto, ma guardi, questo è Bonifacio VIII, ma le assicuro che Dario non ha niente, è vestito nero, non c'ha nulla. No, lei si sbaglia. Le dico che aveva un mantello rosso e si metteva gli anelli. Insomma, io alla fine gli ho detto, sì, guardi, io le mando la cassetta. Era Bonifacio VIII. Eppure, evidentemente, Dario era arrivato a lui attraverso il suo corpo e aveva fatto immaginare... probabilmente poi a lui era arrivato un mantello rosso, degli anelli, non lo so di che colore, magari all'altro vicino in platea, magari si è immaginato che quel mantello non era affatto rosso, magari era nero, magari la montagna che si vedeva là in fondo in una giullarata era piena di fiori gialli, e l'altro perché? Perché Dario nel suo modo di recitare accenna a delle situazioni di scenografia, di personaggi, ma non li squadra in modo totale, in maniera che la fantasia del pubblico sia un po' libera, perché deve esserci, il pubblico non deve essere lì a guardarti e basta, il pubblico deve lavorare con te, il pubblico deve esserci, deve ridere, deve partecipare, e deve insieme a te viaggiare in questa storia. E questa cosa è la cosa che io ho cercato di fare e che mi affascina di più. Allora, visto che siamo arrivati al viaggio a Gian Padano, ci puoi spiegare un po' cosa è cambiato rispetto all'originale, quali sono stati i problemi nel passare al femminile? Beh, allora... Prima di tutto questo lavoro io l'ho fatto mentre eravamo in tournée, e mentre eravamo in tournée in pratica io cosa facevo? Cercavo disperatamente di riscrivere delle situazioni di Joan Padan pensando di essere una donna a dover parlare, poi le sottoponevo a Dario Fo che era in tournée con noi e me le bocciava sempre. Una cosa, cioè, proprio da incubo. Però nello stesso momento, cosa faceva? Mi bocciava delle cose che avevo fatto e mi dava, mentre si mangiava, perché sempre in modo molto informale queste cose, mi dava degli input, mi citava delle cose, mi diceva ma perché anche non so, c'è una scena in cui si parla di una violenza subita da delle monache in un convento. Ma l'hai inventati tu la storia delle monache? Sì, però io appunto accennavo a quello che avevo scritto eccetera e lui mi diceva che no, così non andava bene, però di cercare il perché. Joanna in quel momento si sentiva così, perché di trovare delle soluzioni, no? E mi dava alcune indicazioni. E allora io tornavo nella mia camera nel pomeriggio e cercavo di scrivere. La mia difficoltà iniziale è stato quello di di dire, ma una donna a in quell'epoca come poteva trovarsi in quella situazione di viaggiare, trovarsi su una nave di Cristoforo Colombo, eccetera. E allora ho dovuto creare una situazione prima della partenza di Joan Padan ufficiale, cioè di questa donna che si trova in una famiglia poverissima dove soltanto sono nate soltanto femmine e quindi il padre è disperato in questa famiglia e lei viene costretta ad entrare in un convento per salvarsi da questa carestia, perché altrimenti non si sarebbe salvata. E nel convento la soluzione è stata quella di: il convento serve per far sì che questa donna non istruita possa imparare delle cose che in quel momento un uomo poteva magari imparare più facilmente, ma una donna no. Imparare a scrivere, imparare a leggere e prendere una coscienza del suo essere donna in quell'epoca, in quel tempo. Quindi diciamo che la difficoltà maggiore è stata quella dell'inizio di questa storia. Una volta che la storia è iniziata, è andata un po' da sé, nel senso che in alcune strutture, una parte della struttura di Joanna Padana è rimasta fedele all'originale, cioè nei viaggi, ad esempio, no? Lei viaggia verso Siviglia, viaggia verso l'America, eccetera, negli incontri che fa. Però tutti questi incontri e anche questi viaggi sono vissuti un po' più femministi, femminista. Lei è, il testo diventa femminista in quel momento. C'è un pezzo in cui nell'originale di Dario Fo, Joan Padan si salva abbracciato da un naufragio, abbracciato a un porcello, perché il porcello galleggia e quindi... No? Esatto, quello si salva e va bene e si salva. La relazione invece Joanna Padana con quel porcello cosa diventa? Diventa che lei è lì con questo bestione che non riesce neanche a sollevare perché è un porcellon tremendo, e che cosa fa? Comincia a prenderlo, a spingerlo, e il porcello si ribella perché gli dice: io con le femmine non voglio averci a che fare, va bene? Non voglio ordini da una donna. E allora lei dice: ma come? Cerca la dialettica con il porcello, Joanna, perché? Perché una donna cosa fa? Cerca di parlarci, cosa deve fare? Non può mica ammazzarlo, no? Allora lei dice: ho cercato la dialettica, ma non te capisce, non te capisce, stiamo per annegare, ma non te capisce. E quello per tutta risposta, pluff, mi gira il cu. Godate una pesciata in dei coglion, le andà sul ponte con un sol balzo, da spò mi veniva driume un cagnolin, sempre farsi rispettare dai masci, in specie se son porcelli veraz. Allora, diciamo... brava. Allora, pensate adesso come si può tradurre questa cosa qua, che è... Perché gli studenti che sono qua in fila, che hanno tradotto quindi il tuo adattamento per fare poi i sottotitoli, hanno dovuto fare con questa corporeità, con questo rapporto molto femminile, del corpo femminile, che non è solo quello l'episodio, c'è anche l'episodio della nudità, cioè lei non si può far vedere nuda, non può fare scorgere che è una femmina. E si sente nella scrittura del testo questa corporeità, che è molto difficile da rendere in francese, anche perché non abbiamo le stesse parole. Per esempio, quando tu dici, scrivi, come Dario Fo, credo, le zinne, cosa mettiamo noi? Cioè, rimaniamo al neutro sain o mettiamo nichon, che diventa una cosa un po' più volgare, o cosa mettiamo? Lolo, o nené, o teton? Questo è stato un vero problema per noi. Cioè, dipende come lei lo dice e in che prospettiva lo dice. Ecco, quello che ti volevo dire, scrivendo e recitando questo testo, come hai fatto il legame tra la corporeità, che è anche quella dell'attrice, e la scrittura, e la lingua? Cioè, come hai concepito questo legame? Una cosa naturale che ti viene così, oppure ci devi pensare un attimo? Ma è una cosa piuttosto naturale, perché, come dicevo prima, è un po' un ritorno alla... secondo me, il viaggio, per poter più facilmente avvicinarsi a un testo come... un testo Mistero Buffo, Joan Padan, Joanna Padan, eccetera, è quello di eliminare mentalmente tutte le aggiunte che tu ti puoi fare, in italiano si direbbero le menate proprio, cioè tutte queste cose psicologiche, intellettuali che ti possono creare delle cose, degli indurimenti. Invece tu devi ritornare quasi a una lingua ombelicale, una lingua del ventre, della pancia, che poi, insomma, tutto sommato è un po' la lingua che fa parte della mia origine, no? Una lingua lombardo-veneta, che non ha però troppi pudori, nel senso che non è troppo fiscale, non è il dialetto che devi stare rigidamente dentro quelle parole, perché poi se ti sposti di qualche chilometro il dialetto cambia. E invece no, è proprio la bellezza del dialetto, della reinvenzione dialettale, che ti porta addirittura all'onomatopea. E chi se ne frega, capito? Cioè diventa un suono e il suono diventa forma, diventa parola e il tuo corpo segue quella parola, segue la forma. Infatti, vabbè, quindi vedrete ragazzi, quello che lei traduce in francese per il secondo spettacolo è quasi una lingua più bella di quella che abbiamo usato noi per fare la traduzione del testo, perché lei è partita dal corpo. Dal respiro, ecco, tu per dire questo testo francese non sei partita dalla lingua francese e nemmeno dalla traduzione. Questo testo intendi? Quello della seconda sera. La Pappagliatopola. Per esempio, cioè, non so se ne puoi parlare sì. Un attimino. Sì, io ho fatto una cosa avventata, che spero voi vedrete, perché è stato un bello sforzo da parte mia, vi dico la verità, perché io il francese l'ho imparato a scuola, insomma, quando ho fatto le scuole superiori, però poi non usandolo quotidianamente, chiaramente non ho questa facilità nel parlare. Però mi affascinava, no? Riuscire a portare qua uno spettacolo in lingua, in maniera che tutto sommato ci fosse la possibilità da parte vostra di vedere una Ioanna Padana nel linguaggio originale e una tutta casa in francese, dove c'è un linguaggio quotidiano in tutta casa, letto e chiesa, ma all'interno c'è questa Pappagliatopola, la no. Parpaiole Chatounette, la Parpaiole Chatounette. E, dove il linguaggio originale è quello di Dario Fo, cioè questa reinvenzione di dialetti. E io ho pensato, come faccio adesso? Perché insomma lo spettacolo ha un ritmo, cioè specialmente in questo dove il mio corpo segue proprio fisicamente un certo ritmo. E allora ho pensato di mantenere il più possibile il ritmo originale che io ho. Per piegando esempio, il francese a piegando un po' il francese a quello, vi faccio per esempio, non so, c'è un momento in cui allora la storia è praticamente la storia di questo Giovan Pedro, che è un coglioncione tremendo, che è uno stupidotto, che vive in mezzo alle montagne, in mezzo alle capre, alle pecore, e l'unica compagnia che ha è un misogeno che gli dice di stare lontano dalle donne, perché queste sotto le gonne hanno delle, in italiano è delle Pappagliatopole, tremende, con delle lamine che fanno saltar via tutti quello che gli capita a tiro. E allora lui è terrorizzato dall'incontro di qualsiasi donna. Però questo vecchio muore, lo lascia erede di tutti i suoi beni e lui diventa un bel partito. E tutte le madri che hanno delle ragazze da marito vengono sulla montagna per far conoscere queste ragazze. Ma lui scappa terrorizzato. E nella valle c'è un prete che ha un furbacchione tremendo, ha una tresca amorosa con la più bella ragazza del paese, che si chiama Alessia. E la madre di Alessia scopre questa situazione, impone che si trovi un marito di copertura per nascondere la situazione, e questo prete furbo dice, beh, un marito migliore di Giovan Pedro, che è un coglioncione, non può esserci. E allora, con uno stratagemma, insomma, li fa conoscere e si sposano. C'è un momento in cui la madre della ragazza va dal prete a chiedere appunto che venga trovato un marito di copertura. E questa madre si chiama la Renard, perché è molto furba, no? E allora in italiano, in lingua originale, c'è questa madre che dice, va dal prete e dice di trovare un marito di copertura e dice, non mi importa col sia, che insomma, il francese è immerso nella mia testa, e dice, lo sai che è proprio un vuoto? Un vuoto in italiano? Dillo in francese. In francese l'abbiamo tradotto così. Non mi importa che sia grognon, cabochon, niaiseux, pureux, furieux, che la tremblotte, che ci danza culotte, che crache, che pète, grand, un poupon, long cou, o un vieux avec les couilles jusqu'au genou. Ok. Perché? Perché il ritmo dell'originale è questo. E ho cercato di mantenere in un certo modo lo stesso andamento, un po' per facilitare me, però nello stesso momento per mantenere proprio la struttura fisica. Chissà se me lo ricorderò mai più in italiano. Torni in Italia, lo fai in francese. Lo faccio in francese adesso, lo so già. Magari chiediamo se ci sono domande dal pubblico. No, no, non ci pensavo proprio. No, io avevo fatto appunto tutta casa e avevo fatto Mistero Buffo, no? Ho visto questa versione, ho visto un re. Mi sarebbe piaciuto fare un altro spettacolo e avevo nella mia testa, non so perché, io sono pazza della storia della tigre. Però Dario invece non me l'ha sconsigliato perché non riteneva adatto a una donna. Perché? Perché non tanto per una questione tecnica, quanto per una questione di relazione tra la tigre e il protagonista, dove si crea proprio la famiglia, no? E quindi ho detto, vabbè, ho abbassato le orecchie, ho detto, vabbè, non c'è problema. Però invece lui mi ha detto, perché invece di quello non provi a pensare al femminile, a Ioana Padana, che io veramente non ci avevo proprio pensato. E da lì che è partito il tutto, quindi è stato proprio lui. Ma tu con la storia delle tigre pensavi di metterlo al femminile o di interpretare il soldato maschio? No, poi non ci ho pensato fino in fondo a una soluzione. La storia mi piaceva molto. Probabilmente avrei trovato delle difficoltà e avrei cercato di superarle in qualche modo, poi non so se trovando la giusta strada oppure no. Però quando poi ho sentito che già da parte sua c'era una certa titubanza, allora ho preferito scegliere un'opzione che forse mi sembrava più facile da raggiungere. Ci sono altre domande? Sì, io ho una domanda così. Che mi ci ha fatto pensare raccontando appunto lavoro che avete fatto con Lucie e anche con Letizia per tradurre e con gli studenti per tradurre il testo e poi come lo stai integrando adesso. Ricordo che quando Ginette Herry è venuta l'anno scorso, Ginette Herry è stata un po' l'interprete, la traduttrice di Fo quando Fo è venuto in Francia nel 74. E lei era andata a Milano, vicino a Milano, da Fo, e assieme dovevano trovare una soluzione rapidamente per adattare Mistero Buffo in francese per un pubblico francese. E lei raccontava come Fo facesse proprio quello che stai un po' dicendo tu, con anche forse una dimensione ancora che appunto su quello che porta la mia domanda, cioè lui diceva ad esempio c'era un punto in cui bisognava dire inginocchiarsi e lei dice inginocchiarsi si dice era genuflettersi era genuflettersi esatto, e in francese si sarebbe detto s'agenouiller. E lui dice, s'agenouiller non mi piace, non funziona, e aveva inventato su genuflé, che ovviamente non esiste in francese, ma che veniva proprio e aveva quindi tutta questa serie di trasposizioni. Poi tra l'altro raccontava anche come il rapporto con il traduttore fosse diventato nell'ambito dello spettacolo occasione perenne di appunto rotture del quarto muro, insomma, di intervento diretto con occasioni, come si diceva anche questa mattina, di interazione col pubblico, di momenti comici, eccetera. E, no, dicevo, se oltre alla questione del ritmo, lavorando, abituata a lavorare su dei testi che alla fine, come dicevi inizialmente, linguisticamente spaziano e sono molto così plastici e creativi, e anche rispetto al francese tu non abbia cercato a tua volta delle parole che ti sembrino suonare meglio, insomma, tra virgolette. Sì, peccato che non esistessero. Sì, poverina l'abbiamo anche corretta con Letizia. Sì, sì, sì. Sai che cosa? È che appunto in questo tipo di teatro il ritmo è fondamentale, e allora non c'è nulla da fare, specialmente se lo devi interpretare tu, perché poi, insomma, ne parlavo proprio l'altro giorno, no, con te. Sì, è vero che ogni lingua ha una sua sonorità, un suo ritmo, eccetera, però è anche vero che se la struttura tecnica dello spettacolo è basata su un determinato modo, perché il teatro di Faux, diciamo che l'importanza nella risata del ritmo giusto è del 90%, indipendentemente da quello che sto dicendo. Nel senso che è chiaro che non è fatto da battuta da cabaret, dove tu dici la battuta comica e quindi ti fa ridere giusto il, come lo dici, no? Cioè il significato della battuta, ma qui è basato sul tim, è un concerto, se questa cosa non c'è, io non ci posso fare niente, e quindi la devo andare a cercare, capito? E vado a cercarmi il concerto, e per me che sono attore, per me è fondamentale. E nella lingua che se la devo, cioè se ci devo mettere le mani nella traduzione, è la cosa che continua a tampinare quel povero che deve fare la traduzione, che rinuncia a ogni senso di autorità o di possesso sul testo, non è possibile. Ecco. Sì, no, però il risultato secondo me premia. Se si riesce a fare lo sforzo di trovare le parole, no? Anche andando proprio a ricercarle, facendo uno sforzo da parte della traduzione, premia la resa dello spettacolo. No, questo è soprattutto per noi, non necessariamente io, ma anche e soprattutto Lucie e quelli che lavorano sulla traduzione dei testi teatrali, da riflettere, perché immagino che vada oltre, magari non tutto il teatro è così ovviamente, però non deve essere facile per un attore interpretare una traduzione alla quale non abbia collaborato in qualche modo, forse, sì. Lascio la risposta a chi se ne intende più di me. Ma io penso che un attore francese, no, per dire, se adesso dovessi dargli in mano, non so, la Parpaia Topola che abbiamo, che può essere migliorata, non è il top che si può ottenere, però diciamo che è una traduzione e gliela do in mano, lui secondo me con quel ritmo scritto è facilitato nella messa in scena, perché è lì, è scritto il ritmo che deve tenere e il risultato quello lo ottiene. Poi si possono fare delle varianti, eccetera, però quella base è un vantaggio, perché quello è il ritmo, diciamo, d'arrivo di un attore che in qualche modo, vabbè, mio, ma potrebbe essere quello di Faux, che l'ha messo in scena tante volte e sa che lì viene la risata, lì viene... Poi è chiaro, la parola può essere studiata meglio, la sfumatura migliore, facendola più curiosa, più fantasiosa, più buffa, però nel mantenere abbastanza il ritmo dell'attore, è un grande vantaggio per chi lo deve mettere in scena poi. Una cosa da dire è che per lo spettacolo Tutta casa, letto e chiesa, a cui fa parte la Parpaia Topola, è stato tradotto una prima volta, poi ritradotto da questa tua amica canadese. Sì. Ecco. No, abbiamo fatto un lavoro, diciamo così, proprio quasi giocoso. Non aveva... La traduzione non voleva essere una traduzione per il libro, esatto, per essere pubblicato o meno. Era stata una cosa giocosa perché appunto io volevo tradurre come la facevo io, punto e basta. E avevo questa signora canadese che non fa la traduttrice di professione, però mi ha dato una mano. Poi arrivando qui chiaramente c'erano delle cose che non funzionavano. E le abbiamo delle parole, ecco, canadesi che non, noi non capivamo. Non c'era. cioè, ma cos'è? Non lo so. E quindi giustamente ieri abbiamo fatto un lavoro con loro e adesso mi annoterò tutte queste parole nuove. Però insomma, diciamo che la struttura maggiore era stata fatta, e si è messa anche quella signora le mani nei capelli, Madeleine. Sì, su quello che diceva Davide, nel tuo caso una cosa particolare, perché lo recitavi già prima in italiano, certo. Quindi volevi ritrovare gli stessi ritmi tuoi dell'italiano, quindi per un attore francese la cosa, anche se si riprende la versione di Marini, sicuramente gli andrà bene, però la cosa è un po' diversa. Sì, può trovare dei ritmi anche suoi differenti. Però, cioè se il ritmo è un ritmo che deve avere un certo tipo di musicalità, comunque deve averla, anche se non è identico, ma deve avere quello. Cioè se deve essere in tre quarti, non può essere in modo diverso, deve essere in tre quarti, quattro quarti, se deve, capito? È come uno spartito musicale, anche una traduzione. Poi puoi cercare di fare delle varianti, ma secondo me bisognerebbe riuscire a rispettare, perché è facilitato. Sì, adesso stai parlando di una cosa molto precisa, quindi uno spartito. E invece con Ioanna Padana c'è un altro problema, che a volte vai anche a soggetto e mentre c'hai i sottotitoli, sì. Soprattutto cioè fissati, abbiamo provato. È un problema. Abbiamo provato questa tecnica, no? Che tra l'altro, vabbè, questa è una tecnica, cioè una via di mezzo tra quello che doveva essere e quello che possiamo fare. Io ho sperimentato in Danimarca e negli Stati Uniti questa tecnica, che io non so se qualcun altro l'abbia usata, però diciamo che Franca mi ha sempre detto che insomma negli anni 80 la inventata lei, perché si è trovata praticamente negli Stati Uniti a dover fare, non so che spettacolo fosse, probabilmente un monologo, però non so se era Tutta casa, letto e chiesa probabilmente, e cosa faceva? C'era il traduttore simultaneo a fianco suo, lei diceva una parola, una battuta, lui la ripeteva, lei diceva un'altra battuta, lui la ripeteva, e lei cominciava ad impazzire perché i ritmi cominciavano ad andare completamente fuori. E ha detto non ce la posso fare, non ce la posso fare, perché poi ci sono alcuni monologhi che sono proprio pieni di ritmo. Tutta casa, letto e chiesa, ad esempio, il risveglio è un pezzo dove è tutto stringato, dato dai movimenti, cioè se poi devo aspettare che l'altro traduca divento matta. Allora cosa ha pensato di fare? Ha pensato di utilizzare praticamente una lavagna luminosa con il rullo, no, trasparente, solito, dietro le quinte del teatro, con uno schermo dietro alle sue spalle, sopra la sua testa, e questo rullo, con l'assistenza di una persona che conosceva benissimo il suo modo di recitare, faceva scendere la battuta, ma la battuta intendo proprio la frasettina, la piccola frase, nel momento giusto. Ad esempio, e graficamente con una grafica un po' più grossa, più piccola, più buffa, a seconda di cosa sto dicendo. Se per esempio io devo dire sempre pronta, devo essere sempre pronta come il Nescafè, no? Allora, dato che il Nescafè è la battuta, diciamo, più ironica, no? Simpatica. Allora scenderà, sempre pronta devo essere, sempre pronta, un po' più grande, come il Nescafè, grande così. Io ho fatto questo lavoro di Rulli in Danimarca, scrivendo per la prima volta Sesso, grazie tanto per gradire. E mi ricordo che a quel punto l'abbiamo anche evoluta la cosa, per cui è diventata colorata, molto colorato, no? Questo. E c'erano delle espressioni, per esempio, non so, per dire, c'è lei che a un certo punto dice orgasmo! Lì usciva un orgasmo, scritto tutto come un riccio. La gente appena rideva perché aveva già capito orgasmo detto da lei, mentre stava scendendo lo schermo con l'immagine, rideva ancora, perché rideva anche per quella scritta così buffa, e in parecchi momenti l'abbiamo mantenuta. Qui abbiamo cercato di fare una cosa, cercando di essere un po' più tecnologici, cercando di ottenere un risultato simile, e abbiamo usato il computer. Però con lo stesso principio, cioè con il fatto che sopra la mia testa a poco non scorrono, ma appaiono le battute cardini, no? Con grandezze diverse, e nello stesso momento è lei che lo fa funzionare, nello stesso momento in cui io lo dico, sperando di non sbagliarmi e che dico una frase prima dell'altra, ecco. Però dovrebbe funzionare in quella maniera qua. E il risultato penso sia abbastanza di impatto, perché è quasi contemporaneo alla battuta dell'attore, e per chi legge non è come vedere scorrere o non so di lato oppure sopra una serie di scritte, ma è concentrarsi nella battuta e capire già che quella battuta com'è, col rischio però che chi non capisce l'italiano o il dialetto passi tutto il tempo a guardare lo schermo e non più te. Sì, questo rischio c'è, anche se confido nel fatto che siate abituati a leggere i sottotitoli. No, nel senso che capite l'italiano e va bene, e se no è chiaro che insomma la scritta c'è, per cui se uno non capisce proprio è chiaro che ti vai a, il tuo occhio cade per forza sopra la scritta. Però secondo me potrebbe essere, cioè, ripeto, io l'ho visto, questa tecnica l'ho vista fare con Franca e funzionava, cioè la gente diciamo che rideva nei momenti giusti. Poi non so se ridesse perché vedeva Franca o perché leggeva, però nell'insieme aveva il suo risultato quasi perfetto, perché erano quasi uguali all'italiano. Beh sì, tanto più che in questo caso non è proprio italiano la lingua in questione. In più io non parlo per più neanche italiano. L'invito a guardare i sopratitoli sarà ancora più forte. Allora, forse possiamo prendere ancora una domanda, ma poi bisognerà uscire perché... Mi ha incuriosito quando ha raccontato che Dario e Franca si riascoltavano le cassette, in particolare cercando la risata mancata. E così volevo chiedere un po' più particolari, perché immagino che l'attore quando recita non cerca l'effetto immediato, cioè si esprime, crea in modo spontaneo. Diciamo che tu quando scrivi un testo, cioè tu quando scrivi un testo, Dario e Franca quando scrivono un testo, allora dicono, Franca in particolare, allora qua è una risata, qua è una risatina, qua c'è una risata, qua non c'è una risata, qui sì c'è una risata, qui c'è una risata, secondo me qua viene una risata. Questo è tecnicamente la battuta come è formulata. Allora è chiaro che se tu lo testi, lo spettacolo, e comincia a vedere se tutto quello che tu avevi pensato funziona. Perché l'ho pensato così, è chiaro, no? Cioè è chiaro che non è che tu scrivi il testo finalizzato esclusivamente alla risata, però in uno spettacolo comico, come sono quasi tutti loro, anche se sono grotteschi, no? Con denunce politiche e tutto, ma è uno spettacolo comico con dei messaggi. E se non avviene la risata, tu ti disperi a un certo punto, perché non, a parte che ci rimani male, ma non hai neanche impossibilità di prendere un respiro, perché sei lì, faccio l'esempio di un monologo che è la cosa più evidente, no? Se tu parli per un'ora o per due ore, e diavolo, la prima risata non viene, la seconda non viene, la terza non viene. Io mi ricordo Franca Rame, ricordo dove eravamo, eravamo al sud, in due situazioni. Una, a un certo punto, poi non è venuta, dopo tre o quattro volte che non venivano le risate quella sera, si è fermata e ha detto, scusate, mi passate gli occhiali, no, fossero usciti tutti, perché... Si è fermata e ha detto, non so, avete dei problemi? Parliamone. Perché di solito ridono perché non ridete. Diventa matto un attore. Perché non hai le risposte, devono esserci. Cioè, non è solo una risata, però tu che sei da solo su un palco e in quel momento, dopo che magari lo hai anche fatto più di una volta, dovresti ridere, perché non ridi? Cioè, io lo... Per me matematicamente è un dialogo, io e te. Tu non mi rispondi che dialogo è, capito? Poi è chiaro che c'è il pubblico più timido, il pubblico quello che magari sorride però non... Però se vedi che non c'è reazione. A Enna, sempre Franca, e recitava, mi pare tutta Casa, Letto e Chiesa, questa me l'ha raccontata, non l'ho vissuta io, ha avuto una serata di quelle, perché ogni tanto capita, perché il pubblico sembra che si sia messo d'accordo, tutti quelli che non ridono mai, cioè non lo so, no? Sembra che sia... E allora, ha fatto una serata in cui era morta, anche perché proprio fisicamente, non essendoci questa relazione, tu finisci che sei stanco. E quindi era lì un po' abbattuta sopra la poltrona, così che aspettava che smontassero. Il direttore del teatro passa e dice, signora, che bello spettacolo, ha visto come si sono divertiti? Veramente, non hanno riso mai. Fa, ah no, noi non ridiamo per non disturbare. Ed è una delle cose che ogni tanto lei cita, dicendo al pubblico, disturbate pure, non abbiate paura. Per cui c'è una forma, no, di educazione del pubblico, ad esempio il pubblico siciliano è sicuramente più attento e rispettoso di un pubblico ad esempio milanese o fiorentino, eccetera. Però deve esserci quella base di rapporto e la risata in questo caso è un rapporto. Così come in uno spettacolo drammatico, come può essere... Non so, un pezzo drammatico come può essere, parlo di pezzi che ho fatto anch'io, per cui ho tasto, come può essere lo stupro, come può essere Maria sotto la croce. La tua relazione con il pubblico, che non è data dalla risata, è data dal silenzio e dall'energia che si crea intorno a te. Ci sono delle volte che tu fai dei pezzi drammatici e la gente, non so, magari non lo fa neanche apposta, però gli vengono delle bronchiti enormi, no? Cominciano a tossire. Oppure magari, magari lei non lo fa apposta, però proprio in quel momento, no? Cioè uno si deve soffocare. Abbiamo provato prima, O cigola la seggiola, no? Sono queste cose qui. Cominciano a scartare la caramella, proprio in quel momento, no, se uno è preso non lo fa, non lo può fare, no, perché lì ha paura di disturbare e comunque non se la sente, cioè l'energia è quella. Quindi poi il fatto che loro ascoltino le loro pièce e le analizzino tutte le volte è perché lo spettacolo deve essere alla fine della tournée una macchina teatrale. Una macchina teatrale, perché io l'ho scritto, io l'ho provato anch'io, quando tu scrivi qualcosa, poi tu hai pensato che funzioni in un determinato modo, non sei ben sicuro però, no? Finché non lo testi sul pubblico, lo testi, poi tu vorresti che lì ci fosse un tipo di rapporto con il pubblico, dato magari dalla risata, no? O da anche dal commento del pubblico, proprio dalla reazione del pubblico. Non c'è, allora lo modifichi, lo riprovi, lo ritesti, fino a che dopo un po' di repliche è diventata una macchina perfetta. Bene, scusate, ma dobbiamo proprio lasciare l'anfiteatro. Domani e dopodomani non abbiate paura di disturbare Marina. Esatto. Infatti, e poi grazie. Grazie Marina.